America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. President Obama spoke earlier today with Italian Prime Minister Mario Monti. Barack Obama ha avuto una chiacchierata telefonica con il nostro Presidente del Consiglio Mario Monti e vi avevamo anticipato qui su America 24 che la chiacchierata sarebbe avvenuta in tempi molto brevi e difatti eccola qui, temi della discussione. Beh, innanzitutto politica estera, Afghanistan, Libano, Kosovo, Libia sono i fronti su cui l'Italia è impegnata al fianco degli Stati Uniti. Barack Obama ha menzionato queste situazioni, ma la parte più importante della conversazione è stata naturalmente economica. Barack Obama ha espresso appoggio, solidarietà per il governo Monti, ha riconosciuto le capacità tecniche degli individui che formano questo nuovo governo e ha espresso parole di incoraggiamento perché dalla gestione economica dell'Italia ma dell'Europa in genere dipendono poi i destini dell'economia americana e in ultima analisi i destini stessi della presidenza Obama. Dunque è un punto centrale questo per gli Stati Uniti e Mario Monti ha illustrato il suo piano, ha cercato di rassicurare il presidente americano su questo. Ecco, mentre questa conversazione avveniva, però in America si sviluppava, possiamo anche definirlo un dramma, un piccolo dramma economico, perché questa crisi finanziaria e economica che stiamo testimoniando a livello europeo, a livello internazionale, a questo punto ha toccato l'America. Perché? Perché la supercommissione, alcuni di voi lo ricorderanno, ci fu un tentativo di mettere insieme democratici e repubblicani in un compromesso per fare un grande piano per tagliare il disavanzo pubblico americano. Quel piano fallì e ci fu poi un accordo, quello di costituire una supercommissione. Ora, lo dicevamo anche in questo programma, quando si costituiscono queste supercommissioni, in realtà è perché si sa già che probabilmente non si concluderà un bel nulla, e difatti così è stato. Despite the broad agreement that exists for such an approach, there are still too many Republicans in Congress who have refused to listen to the voices of reason and compromise that are coming from outside of Washington. Alla mezzanotte di ieri è scaduto il termine ultimo per la supercommissione che avrebbe dovuto presentare un progetto di compromesso da essere poi sottoscritto dalle parti per ridurre il disavanzo pubblico americano. Non è successo, e questo spiega perché la borsa americana ieri è stata in rosso tutto il giorno, toccando punte di perdita anche del 2,5-3%. Perdite che sono state in parallelo a quelle europee. E questa cosa, devo dire, mi preoccupa parecchio perché abbiamo una situazione di contagio che ormai si sta espandendo. C'è una piccola differenza, tuttavia, perché in realtà gli accordi politici erano che se la supercommissione non avesse raggiunto un accordo, sarebbero intervenuti a partire dal 2013 tagli automatici per 2.100 miliardi di dollari. Attenzione, perché alla fine del 2012 scadono anche i tagli fiscali del pacchetto Bush e se questi tagli non saranno rinnovati e dunque se le tasse aumenteranno, ci sarà per il periodo previsto per l'applicazione di questi tagli, cioè dal 2013 fino al 2022, ci saranno altri 3.200-3.300 miliardi di dollari in tasse che entreranno nelle casse americane, totale oltre 5.000 miliardi di dollari, quindi in teoria gli Stati Uniti sono più avanti. Il mio pronostico è che alla fine si metteranno d'accordo subito dopo le elezioni, perché non è possibile che dopo le elezioni del novembre 2012 non si arrivi in un mese e mezzo, quando gli elettori avranno espresso il loro parere, a un compromesso. Di questo ho parlato con l'economista Allen Sinai, perché al di là di quel che succederà l'anno prossimo c'è un impatto molto più a breve e dunque con Sinai abbiamo chiacchierato proprio per cercare di capire qual è l'impatto a breve. Yeah, that's correct. On the books for the beginning for 2012, the beginning of 2012 is $200 billion of fiscal contraction. Molto interessante, perché le borse cadono in America? Proprio perché il mancato accordo della supercommissione probabilmente bloccherà il pacchetto di stimoli di Obama, o quantomeno lo ritarderà. In questo momento noi non sappiamo se ci saranno i rinnovi dei vantaggi fiscali che dovevano essere concessi ai lavoratori americani. Proprio ieri Nuria Rubini aveva mandato dei comunicati, diramato dei comunicati, affrontando anche lui questo problema, e cioè il fiscal drag, come ha detto Allen Sinai di circa 200 miliardi di dollari. L'economia americana inizierà il 2012 con 200 miliardi di dollari di stimolo in meno e dunque non ci sarà la crescita che ci si aspettava, le cose peggioreranno, tutto questo capiterà nel momento in cui la crescita europea è una crescita sempre più debole e dunque il rischio in questo momento è quello di un rischio crescita. The contagion is the fourth, first and second quarters and depends on the size of the European recession. So it right now looks like recession in 5, maybe 6 countries. Il contagio secondo me è già in corso nel momento in cui c'è stato questo fallimento a Washington. Di fatto l'America in qualche modo rientra così nei paesi sotto tiro. Con una differenza di nuovo, le debolezze saranno soprattutto sul fronte della borsa, ed è questo che poi ci ha spiegato anche Allen Sinai. Secondo lui non ci sarà un attacco sul debito americano, perché da una parte c'è questo programma già in cantiere per il 2013 che rassicura, dall'altra la mancata crescita non produrrà inflazione e dunque dovrebbe tenere il rendimento e la credibilità dei titoli americani interessanti. Quindi titoli e debito americani senza problemi, nonostante ci sia un indebitamento enorme in America. Il problema potrebbe essere per la borsa. Ieri abbiamo avuto un piccolo anticipo, dovremo vedere se oggi i mercati continueranno oppure se si appiglieranno ad altri possibili barlumi di ottimismo che per ora non si notano. Without a big buyer in the background, given the momentum toward recession in Europe and in Italy, and what that means for lost tax revenues, and even with government spending coming down, what that means for the fiscal position of Italy, plus all the debt that has to be rolled over. Un accenno di Allen Sinai infine alla missione del governo Monti. Devo dire che ha molta fiducia in questo governo Allen Sinai, la stessa che abbiamo sentito all'inizio espressa dal presidente Barack Obama. Dobbiamo tutti affidarci alle capacità di questo governo e del nostro presidente del Consiglio e della sua squadra economica per cercare di rimettere le cose in sesto. È molto rassicurato dall'idea che ci siano degli incentivi fiscali per le aziende e che dunque finalmente ci si concentri sulla crescita e non soltanto sui tagli alla spesa e sull'austerità. In questo momento è importante crescere, crescere, crescere. Questo il governo Monti ha promesso di fare. Un'altra raccomandazione sui tempi: bisogna agire il più rapidamente possibile, altrimenti rischiamo davvero di perdere il treno. Un incoraggiamento anche all'altro Mario italiano a Francoforte, Mario Draghi. Dovrà essere importante che la Banca Centrale Europea intervenga, perché noi invece il problema del debito che non riusciamo a collocare ce l'abbiamo, gli spread stanno aumentando. Cosa ci ha detto poco fa Allen Sinai? Ci ha detto non ci sono compratori. Il problema è che in questa situazione di incertezza la gente preferisce liberarsi degli asset italiani. Ecco, siamo in un momento chiave, in un passaggio chiave, bisogna che il nostro governo al più presto possibile, secondo me non si può aspettare gennaio, ma bisogna farlo subito, faccia delle azioni ulteriori, azioni in più rispetto a quelle che rispondono a quanto si concordò già con l'Europa, per chiarire ai mercati che si sta facendo sul serio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bruce Springsteen ha annunciato l'uscita di un nuovo album e un tour mondiale nel 2012. Grande attesa ovviamente, perché Springsteen sarà anche in Europa tra metà maggio e fine luglio. Di Springsteen, Dancing in the Dark. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know the case. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.